Tra poco presenteremo il programma di mandato, ma in questi 100 giorni abbiamo lavorato sodo. Sono state presentate oggi 30 iniziative che abbiamo già realizzato, da grandi decisioni come il passante di nuova generazione, che è un investimento da oltre 2 miliardi per riqualificare una parte importante della città, agli interventi delle piazze pedonali di fronte alle scuole, gli investimenti sulla casa. Stiamo in questo momento mettendo in campo oltre 120 milioni di euro sulla casa per dare una risposta alle persone che sono in difficoltà. Sulla sanità, sia le campagne per la vaccinazione dei più piccoli, ma anche i piani per portare i servizi per la salute dei cittadini nei quartieri. 30 iniziative già realizzate per una giunta che ha voluto subito lavorare per non lasciare indietro nessuno, quindi una Bologna solidale che vuole essere grande senza lasciare indietro nessuno. Per noi era importante nei primi 100 giorni fare il quadro sulle infrastrutture, dal tram, ottenendo le risorse per fare le due linee fondamentali, quella rossa e quella verde, che collegano Borgo Panigale a San Donato e il centro storico a Castelmaggiore, il passante con tutte le opere complementari che aiuteranno a decongestionare tutta la pianura e i comuni attorno, con 130 ettari di fascia boscata e parchi, le risorse che servono per la riqualificazione dei luoghi della cultura, dal teatro comunale al parcheggio Giuriolo, nuova sede della Cineteca. Sono tante le iniziative che abbiamo finanziato già in questi primi 100 giorni, l'obiettivo era farlo in questi 100 giorni per realizzare nel mandato, perché in questo mandato dobbiamo assolutamente correre. E come diceva, per i prossimi appuntamenti riguardano soprattutto una Bologna più verde e anche questo piano per le case della salute, quindi la salute dei cittadini. In Pronta Verde, il progetto che per noi prevede la realizzazione di 6 parchi nuovi che attraversino la città e l'investimento sulle case della comunità, le chiamiamo così perché abbiamo bisogno di portare nei quartieri gli infermieri di comunità, gli psicologi di comunità, i medici di famiglia. Abbiamo bisogno di rafforzare i servizi per affermare il diritto alla salute. Il Covid ci ha dato una lezione veramente importante, i servizi sociosanitari sul territorio a Bologna devono esserci e funzionare. Siamo arrivati probabilmente al picco della curva pandemica, siamo con gli ospedali pieni. Quello che attendiamo nei prossimi giorni è capire se progressivamente inizieremo a scendere. Questo ci permetterà di tornare davvero a occuparci a pieno titolo di tutte le forme virali, le malattie che ci sono comunque, perché il Covid non ha cancellato le altre malattie. Quindi siamo i primi a voler investire su un'idea di diritto alla salute che torni presto ad avere tutte le sale chirurgiche aperte e una situazione di normalità. Noi abbiamo fatto una lunga campagna elettorale, un anno e mezzo, in cui ho rivendicato il fatto che Bologna volesse essere la città più progressista d'Italia. Abbiamo costruito una coalizione su questo larga, con il consenso dei cittadini, il 62%. In Consiglio Comunale questa coalizione sta decidendo delle cose, perché sulla casa, sulla salute dei cittadini, sul cambiamento climatico, sulle scelte che da tempo Bologna aspetta, come anche una svolta sulla sicurezza con il progetto che abbiamo messo in campo e che sta dando buoni frutti, insieme alle forze dell'ordine, alla prefettura e alla questura, c'era assolutamente bisogno di uno scatto in più, cioè non fare solo buona amministrazione, ma di investirci sopra con un'idea politica. Bologna deve fare politica, deve credere nelle persone e per questo deve essere orgogliosa delle scelte che fa, perché in questo momento investire sulla cultura della solidarietà con progetti politici come quello che Bologna porta avanti significa aiutare le persone ad attraversare la pandemia rendendole più forti.